una Glock, due amici, 30 integrali così non capisci. Il mio palazzo puzzava di piscio, sentivo i topi sgranocchiare il soffitto. Un obiettivo, morire ciccione e ricco. Son serio, non fingo, hai fatto il figo. Col ferro finto sai com'è finita. Strisciavi per terra tu con il tuo amico. E non è finita, 9 mm, un pelo dal tuo viso. Armi sovietiche, fanculo l'addio. Giornalista, fanculo al tuo articolo. Giornalista, fanculo al tuo articolo. Glock vere, parlo con shooter. Tene tuned, Mercedes turbo. 280 la tiro in super. Faccio guerra a tutti come Putin. Mart, Luther. No pace, c'è Ferrini nei bunker. Faccio coperte, potto come burka. Reati per niente, ico come ultras. Martin Luther, no pace, c'è Ferrini nei bunker. Faccio coperte, potto come burka. Reati per niente, ico come ultras. Due gambe in curva, sbirro suca. Croco tutta, 95 footlooker. Paga l'abusto, entro in casa e prendo tutto. Non fai brutto, non sei gangsta, fai G e sei pure stupido. Vuoi coco subito, spendo love, recupero, moltiplico. Tanto quello che ho speso io lo triplico. Becco il tipo, gli do i soldi, mi dai il chilo. Becco toxico, nel frigo vendo dosi, la spartisco. O mi fai il tifo, o mi fai il tifo. Fanculo te, tua sorella, chi vi ha partorito. Mart, Luther. No pace, c'è Ferrini nei bunker. Faccio coperte, potto come burka. Reati per niente, ico come ultras. Martin Luther. No pace, c'è Ferrini nei bunker. Faccio coperte, potto come burka. Reati per niente, ico come ultras.